S'avviò verso il familiare. Ad alta voce, Marco Foschi legge Doppio sogno di Arthur Schnitzler, traduzione di Giuseppe Farese. Fridolin attraversò la piazza del municipio, che luccicava opaca come uno stagno brunastro, e s'avviò verso il familiare quartiere di Josefstadt. Udì da lontano dei passi pesanti, regolari, e vide, ancora a una certa distanza, proprio mentre voltavano l'angolo di una strada, un gruppetto di 6 o 8 studenti che procedevano nella sua direzione. Quando i giovani capitarono sotto la luce di un lampione, credette di riconoscere i berretti blu della corporazione studentesca degli Alemanni. Non aveva fatto mai parte di un'associazione di goliardi, ma a suo tempo si era qualche volta misurato in duello con loro. Il ricordo degli anni di università gli richiamò alla mente le 2 maschere in domino rosso che la notte scorsa l'avevano attirato nel palco e subito dopo insolentemente abbandonato. Gli studenti si erano avvicinati, parlavano ad alta voce e ridevano. Poteva darsi che ne avesse già conosciuto qualcuno in ospedale, ma con quella luce incerta non era possibile scorgerne i volti. Dovette tenersi molto accosto al muro per evitare di scontrarsi con loro. Adesso erano passati. Solo l'ultimo, uno spilungone col cappotto aperto e una benda sull'occhio sinistro, sembrò attardarsi addirittura di proposito e gli diede una gomitata. Non poteva essere un caso. Che gli salta in mente? Pensò Fridolin e istintivamente si fermò. L'altro fece lo stesso dopo 2 passi. Si guardarono così per un momento negli occhi, piuttosto da vicino. Ma improvvisamente Fridolin si voltò e proseguì per la sua strada. Udì una breve risata alle sue spalle e si sarebbe quasi girato di nuovo per affrontare il giovanotto, ma sentì uno strano batticuore. Proprio come una volta 12 o 14 anni prima, quando qualcuno aveva bussato violentemente alla porta mentre si trovava da lui quella graziosa fanciulla che amava sempre chiacchierare di un fidanzato che aveva lontano e probabilmente non esisteva affatto. In realtà non era stato che il postino a bussare a quel modo. E adesso sentiva il cuore battere proprio come allora. «Che succede?» si domandò adirato. E notò che gli tremavano un po' le ginocchia. «Viltà? Sciocchezze», si disse. «Dovrei forse litigare con uno studente ubriaco. Io, un uomo di 35 anni, medico, sposato, padre di una bambina. Sfida, padrini, duello e infine una bella ferita sul braccio per una così stupida provocazione. Inabile al lavoro per qualche settimana. Oppure la perdita di un occhio. O addirittura setticemia. E fra 8 giorni, disteso sotto la coperta di flanella bruna come il signore della Schrevogelgasse. Viltà? Si era battuto 3 volte con la sciabola e una volta aveva anche accettato un duello alla pistola. Poi la questione era stata composta pacificamente, non certo per sua iniziativa. E la sua professione? Pericoli da ogni parte e in ogni momento. Solo che uno non ci faceva più caso. Quanto tempo era trascorso da quando il bambino con la difterite gli aveva tossito in faccia? 3 o 4 giorni, non di più. Quella era comunque una faccenda più preoccupante di un duello alla sciabola. Tuttavia non ci aveva più pensato. E poi, se avesse incontrato di nuovo quel tipo, avrebbe pur sempre potuto chiarire la questione. Non era affatto obbligato, a mezzanotte, mentre tornava da un malato, o si recava da un malato, in fondo era possibile anche quello. No, non era veramente obbligato a reagire a una sciocca provocazione goliardica. Se adesso, per esempio, gli fosse venuto incontro il giovane danese con cui Albertine... Ma no, che gli saltava in mente. Ebbene, in fondo era come se fosse stata la sua amante. O peggio ancora, Sì, che gli venisse incontro lui in quel momento. Sarebbe un vero piacere potergli stare di fronte in una radura e puntare contro quella testa dai capelli biondi e lisciati la canna di una pistola. A un tratto, superata ormai la sua meta, si trovò in una stradina in cui si aggiravano solo alcune squallide prostitute a caccia notturna di uomini. Che atmosfera spettrale, pensò. Anche gli studenti dai berretti blu divennero improvvisamente spettrali nel ricordo. Così pure Marianne, il fidanzato, lo zio e la zia, che ora immaginò tenersi per mano attorno al letto di morto del vecchio consigliere. Anche Albertine, che gli apparve immersa in un sonno profondo, le mani incrociate dietro la nuca. Persino la bambina, che a quell'ora dormiva raggomitolata nel lettino bianco, e la governante dalle guance rubiconde con la voglia sulla tempia sinistra. Tutti si erano trasformati ai suoi occhi in figure assolutamente spettrali. E sebbene quella sensazione lo facesse un po' inorridire, gli trasmetteva però, allo stesso tempo, una certa calma e sembrava liberarlo da ogni responsabilità e addirittura svincolarlo da ogni rapporto umano. Una delle passeggiatrici lo invitò ad andare con lei. Era una creatura graziosa, ancora molto giovane, pallidissima, le labbra tinte di rossetto. Anche un'avventura simile potrebbe concludersi con la morte, pensò. Solo che la fine non sarebbe tanto rapida. Di nuovo la viltà? E in fondo, sì. Sentì alle sue spalle i passi della donna e poi la sua voce. «Allora andiamo, dottore?» Si voltò involontariamente. «Come fai a conoscermi?» chiese. «Non la conosco», disse. «Ma in questo quartiere sono tutti dottori». Non aveva avuto a che fare con una donna del genere dagli anni del liceo. L'eccitazione che quella creatura gli procurava aveva forse il senso di un improvviso ritorno all'adolescenza. Si ricordò di un conoscente occasionale, un giovane elegante che si diceva avesse un'enorme fortuna con le donne, col quale da studente aveva trascorso qualche ora in un locale notturno al termine di una festa da ballo. Questi, prima di allontanarsi con una delle entraîneuse, al suo sguardo alquanto meravigliato aveva replicato con le parole: «In fondo è sempre la cosa più comoda. E non sono neanche peggiori di tante altre». «Come ti chiami?» fece Fridolin. «Beh, come vuoi che ci chiamino noi?» «Mizzi, naturalmente». Aveva girato la chiave nel portone di casa. Era entrata e aspettava che Fridolin la seguisse. «Svelto!» disse, poiché egli esitava. Fridolin si trovò vicino a lei. Il portone si serrò alle sue spalle. La ragazza chiuse a chiave. Accese una piccola candela e gli fece luce. «Sono pazzo!» si chiese. «Naturalmente non la toccherò». Nella stanza ardeva una lampada a olio. La donna alzò il lucignolo. Era un ambiente molto accogliente, ben tenuto. E comunque si sentiva un odore più gradevole che in casa di Marianne, per esempio. Certo, lì dentro non era stato a letto un vecchio ammalato. La ragazza sorrise. Si avvicinò con discrezione a Fridolin, che l'allontanò dolcemente. Poi gli indicò una sedia, a dondolo, in cui egli si abbandonò con piacere. «Devi essere molto stanco», disse. e gli annui. E mentre si spogliava, senza fretta, la ragazza aggiunse: «Si capisce, un uomo come te, chissà quanto avrà da fare tutto il giorno. Per una di noi la vita è certo più facile». Fridolin si accorse che le sue labbra non erano per nulla truccate, ma colorite di un rosso naturale, e le fece un complimento. «Perché dovrei truccarmi?» domandò. «Quanti anni credi che abbia?» 20, disse Fridolin. 17, rispose. Si sedette sulle sue ginocchia e gli cinse la nuca con il braccio come una bambina. «Chi mai al mondo potrebbe supporre che mi trovo in questa stanza?» egli pensò. «Io stesso l'avrei forse ritenuto possibile un'ora, 10 minuti fa. E perché? Perché?» Lei cercò di baciarlo sulle labbra, lui si tirò indietro. La donna lo guardò meravigliata, un po' triste, e si lasciò scivolare dalle sue ginocchia. Da Fridolin quasi dispiacque perché quell'abbraccio esprimeva tanta consolante tenerezza. La ragazza prese una vestaglia rossa che era appoggiata sulla spalliera del letto, se l'infilò e incrociò le braccia sul petto, nascondendo così del tutto il suo corpo. «Va bene ora?» chiese senza scherno, quasi timida, come se cercasse di capirlo. Fridolin non sapeva bene cosa rispondere. «Hai proprio indovinato», disse infine. «Sono davvero stanco e trovo molto piacevole starmene sdraiato sulla poltrona a dondolo, semplicemente ad ascoltarti. Hai una voce così gradevole e dolce. Parla. Raccontami qualcosa». La ragazza era seduta sul letto e scrollò il capo. «Hai solo paura», disse piano, e poi tra sé quasi sottovoce: «Peccato». Quest'ultima parola suscitò in Fridolin un'improvvisa eccitazione. Si avvicinò a lei, volle abbracciarla. Disse che gli ispirava piena fiducia, e forse era anche vero. La tirò a sé, la corteggiò come si fa con una donna, con una ragazza amata, ma lei si oppose. Fridolin si vergognò ed infine desistette. Lei disse: «Non si può mai sapere. Una volta o l'altra toccherà anche a me. Fai molto bene ad avere paura. E se capitasse qualcosa, mi malediresti». Rifiutò con grande decisione le banconote che le offrì, ed egli non poté insistere oltre. La ragazza si gettò sulle spalle uno scialletto di lana blu, accese una candela, gli fece luce accompagnandolo giù e aprì il portone. «Ormai oggi resterò a casa», disse. Fridolin le prese la mano e istintivamente gliela baciò. Lei lo guardò sorpresa, quasi spaventata, poi rise imbarazzata e felice. «Come una signorina per bene», disse. Il portone si chiuse alle sue spalle e Fridolin, con una rapida occhiata, si fissò in mente il numero della casa per poter inviare l'indomani vino e le cornie a quella povera, cara ragazza. L'aria si era fatta ancora più calda. Il vento tiepido portava nella stradina un profumo di prati umidi e di monti lontani in primavera. «Dove vado ora?» pensò Fridolin. «Come se non fosse naturale tornare finalmente a casa e andare a letto, ma non poté decidersi a farlo. Dopo quello spiacevole incontro con gli studenti gli sembrava di essere un reietto. O forse dopo la confessione di Marianne. No, da prima ancora. Dopo la conversazione serale con Albertine, si stava allontanando sempre più dalla normale sfera della sua esistenza, addentrandosi in un altro mondo, lontano ed estraneo. Vagò per le strade nella notte, si fece carezzare la fronte da un leggero fön e infine, con passo deciso, come se fosse giunto a una meta a lungo cercata, entrò in un caffè qualunque, accogliente, di vecchio stile, non molto grande, scarsamente illuminato e, a quell'ora tarda, quasi vuoto. In un angolo tre signori giocavano a carte. Un cameriere che fino allora aveva seguito il gioco prese l'ordinazione, gli mise sul tavolo riviste illustrate e giornali della sera. Fridolin si sentì come al sicuro e cominciò a sfogliare rapidamente i giornali. Il suo sguardo si fermava qua e là sulle notizie di cronaca. In una città della Boemia erano stati divelti dei cartelli stradali in lingua tedesca. A Costantinopoli era in corso una conferenza per la costruzione di una ferrovia in Asia Minore alla quale partecipava anche Lord Cranford. La ditta Bennis e Weingruber aveva dichiarato fallimento. La prostituta Anna Tiger aveva tentato per gelosia di sfregiare col vetriolo l'amica Ermine Drobitsky. Quella sera aveva luogo nella Sophie & Sellen una cena a base di pesce. Una giovane, Marie B., abitante nella Schönbürner Hauptstrasse 28, si era avvelenata col sublimato. Tutti questi fatti, insignificanti o tristi, esercitavano, con la loro asciutta banalità, un effetto in qualche modo disincantante e tranquillizzante. Provò una certa compassione per la giovane Marie B. Sublimato. Ah, che stupidaggine! In quel medesimo istante, mentre lui sta seduto comodamente al caffè, Albertine dorme tranquilla con le mani incrociate dietro la nuca e il consigliere ha ormai superato ogni sofferenza terrena. Marie B., Schönbrunner Hauptstrasse 28, si torce in dolori insensati. Sollevò lo sguardo dal giornale. Da un tavolo di fronte, due occhi erano fissi su di lui. Possibile? Nachtigall? Questi l'aveva già riconosciuto. Alzò le braccia lietamente sorpreso e gli si avvicinò. Era un uomo ancora giovane, alto e abbastanza robusto, quasi tozzo, coi capelli lunghi, leggermente ondulati e già un po' brizzolati, e baffi bianchi, rivolti all'ingiù, alla maniera polacca. Portava un cappotto grigio e aperto, e sotto un frac alquanto unto, una camicia sgualcita con tre bottoni di brillanti falsi, un colletto spiegazzato e una cravatta svolazzante di seta bianca. Aveva le palpebre arrossate come per molte notti insonni, ma gli occhi brillavano, chiari e azzurri. «Nachtigall, sei a Vienna!» disse Fridolin. «Non lo sai?» disse Nachtigall con morbido accento polacco e una leggera cadenza ebraica. «Com'è possibile che tu non lo sappia? Eppure sono così famoso!» rise forte e bonariamente. «Come? Magari sei diventato in segreto professore di chirurgia!» Nachtigall scoppiò in una risata più fragorosa. «Non mi hai sentito poco fa?» «Come hai sentito?» «Ah! Ora capisco!» E solo allora si rese conto che, entrando nel locale, ma anche prima, mentre si avvicinava al caffè, aveva sentito venir su da uno scantinato il suono di un pianoforte. «Allora eri tu il pianista!» esclamò. «E chi altri se no?» rispose, ridendo, Nachtigall. Fridolin Amini. Naturalmente. Quel tocco energico e singolare, quegli strani accordi della mano sinistra, un po' troppo liberi, ma ben armonizzati, gli erano sembrati subito così familiari. «Allora ti sei dedicato tutto alla musica?» disse. Si ricordò che Nachtigall aveva abbandonato definitivamente lo studio della medicina già dopo il secondo preesame di zoologia, che pure aveva superato, anche se con 7 anni di ritardo. Ma aveva continuato ad aggirarsi ancora a lungo per l'ospedale, la sala anatomica, i laboratori, le aule, dando vita con la sua bionda testa d'artista, il colletto sempre spiegazzato, la cravatta svolazzante che una volta doveva essere stata bianca, a un personaggio stravagante, popolare e ben voluto non solo dai colleghi, ma perfino da alcuni professori. Figlio di un ebreo, proprietario di una mescita di acquavite in un paesino polacco, era venuto a Vienna per studiare medicina. Le esigue sovvenzioni dei genitori, sin dall'inizio quasi irrilevanti, erano per giunta presto cessate del tutto, ma ciò non gli aveva impedito di continuare a frequentare un gruppo di studenti di medicina che si riunivano abitualmente al Ridhof. Da un certo momento in poi, il suo conto era stato sempre pagato, a turno, da uno dei colleghi benestanti. Talvolta gli regalavano anche dei vestiti, che accettava altrettanto volentieri, senza falsa superbia. Già nel suo villaggio natale, Nachtigall aveva cominciato a studiare il pianoforte con un concertista fallito e a Vienna, da studiosus medicine, frequentava contemporaneamente il conservatorio, dove pare lo si considerasse dotato di un promettente talento. Ma anche in quel campo non mostrava la serietà e la diligenza necessarie per portare regolarmente a termine gli studi. Ben presto si accontentò solo dei successi musicali ottenuti nella cerchia dei suoi conoscenti, anzi del piacere che procurava loro con le sue esecuzioni al pianoforte. Per un certo periodo aveva fatto il pianista in una scuola da ballo della periferia. Colleghi di università e amici conviviali avevano cercato di introdurlo in case signorili, ma in quelle occasioni suonava sempre solo ciò che sul momento gli andava a genio e fin quando ne aveva voglia. Si abbandonava con le giovani signore a conversazioni non sempre innocenti e beveva più di quanto potesse tollerare. Una volta suonò a una festa da ballo in casa di un direttore di banca. Ancor prima di mezzanotte, dopo aver messo in imbarazzo con osservazioni galanti ed allusive le ragazze che gli passavano davanti e provocato il risentimento dei loro cavalieri, attaccò all'improvviso un furioso can-can e su quella musica cantò con la sua poderosa voce di basso una strofetta a doppio senso. Il direttore di banca lo rimproverò duramente. Nachtigall, come preso da subitanea euforia, si alzò e abbracciò il direttore. Questi si indignò e, sebbene anch'egli ebreo, lanciò al pianista una tipica ingiuria che Nachtigall ricambiò immediatamente con un potente ceffone e sembrò così definitivamente conclusa la sua carriera presso le famiglie per bene della città. In circoli più ristretti, in genere si comportava meglio. Sebbene anche in quelle occasioni a tarda ora fossero talvolta costretti ad allontanarlo con la forza dal locale, ma la mattina successiva quegli incidenti venivano scusati e dimenticati da tutti. Un giorno i suoi colleghi avevano terminato da un pezzo i loro studi, sparì dalla città, senza salutare nessuno. Per alcuni mesi continuarono ad arrivare cartoline di saluto da diverse città polacche e russe, e una volta Fridolin, per il quale Nachtigall aveva sempre avuto una particolare simpatia, fu improvvisamente costretto a ricordarsi di lui per aver ricevuto non solo dei saluti, ma anche la richiesta di una modesta somma. Fridolin inviò subito il denaro, senza mai più ricevere un ringraziamento o un qualunque segno di vita di Nachtigall. Ma in quel momento, alle 2:15 di notte, dopo 8 anni, Nachtigall volle rimediare subito a quella dimenticanza e, ricordandosi esattamente l'ammontare della somma, tirò fuori le banconote da un portafogli alquanto logoro, ma peraltro discretamente fornito, sicché Fridolin poté accettare senza nessuno scrupolo la restituzione del denaro.